Smart City, la città intelligente. Un saluto da Maurizio Melis. Saranno tantissimi e saranno ovunque. Ecco perché vogliamo saperne qualcosa di più. Ascoltate. Giovanni Di Lorenzo di MD Micro Detectors, azienda di Modena che produce sensori di ogni tipo. E noi sappiamo che, in prospettiva la Smart City sarà letteralmente infarcita di sensori, perché i sensori sono il modo, o meglio, sono i recettori del sistema nervoso della città. Il sistema nervoso vero è la banda, è la rete che trasporta tutte queste informazioni, che migliaia, un domani decine di migliaia di sensori sparpagliati dappertutto, a bordo di auto, di edifici, lungo le strade, racconteranno, scatteranno una fotografia continua di quello che accade. Allora oggi con Giovanni Di Lorenzo vogliamo un po' svelare questo mondo dei sensori. Ce ne sono di vari tipi e spieghiamo magari un pochettino anche come funzionano. Perché ne parliamo? Perché mi trovo qui a Parma, alla Fiera dell'Automazione, ho trovato questo stand con un sacco di oggettini piccoli, medi, che servono a percepire in qualche modo la realtà. Allora, possiamo intanto classificarli per categorie questi sensori? Certamente, sensori innanzitutto si dividono in sensori fotoelettrici, sensori di prossimità, che possono a loro volta dividersi in ultrasonici, oppure induttivi, oppure capacitivi, e sensori di sicurezza, sensori che vengono utilizzati per proteggere l'operatore al cedere una macchina a una lavorazione pericolosa. Ecco, andando invece sulla natura tecnologica, che cosa possiamo dire? Ogni sensore ha una propria caratteristica di funzionamento che è anche dovuta a quello che deve andare a rilevare. Quindi un sensore fotoelettrico ovviamente emette un fascio luminoso, che può essere fascio luminoso incoerente, quindi generato da un LED, oppure fascio luminoso generato da una luce laser, visibile o invisibile, quindi molto, molto stretto, molto. E questa è la scelta, dipende da cosa devo andare a rilevare. In che contesti si utilizzano? Per che tipo di applicazioni? I contesti sono i più vari, da quelli di uso pesantemente industriale, quindi vado a vedere se su una macchina c'è la presenza di un oggetto in una determinata posizione, vado a misurare una distanza tra il sensore e l'oggetto che devo andare a rilevare, a quelli più casalinghi, quindi negli ascensori, quindi per vedere se c'è la persona in mezzo. Classica fotocellula. Fotocellula che va a rilevare se la persona è in mezzo alla porta quando si chiude la porta, oppure sensori nelle porte dei supermercati per aprire la porta quando il cliente deve entrare, oppure sempre per rimanere nello stesso ambito, per conteggiare quante persone entrano e escono da un negozio, in modo da fare eventualmente statistiche di presenza di. Quindi in questo caso abbiamo il sensore, avrà un emettitore, una roba che emette la luce, e da qualche parte un sensore vero e proprio che riceve questa informazione e conta quante volte viene interrotto, per esempio, questo fascio luminoso. Emettitore e ricevitore possono essere o nello stesso case, nello stesso contenitore, oppure in due case separati. Comunque, se nella città del futuro dobbiamo contare le persone che entrano in un cinema, per esempio, possiamo fare così. Andiamo su un altro tipo di sensore che è di tipo acustico invece, soprattutto gli ultrasuoni. Come funzionano? A cosa servono? I sensori di ultrasuoni emettono un fascio di onde ultrasoniche che viene riflesso dall'oggetto, ad esempio. Viene misurato il tempo tra il momento in cui viene emesso e il momento in cui viene ricevuto, quindi ho una misura della distanza o della presenza dell'oggetto. Anche in questo caso, per usi industriali, vado a vedere altezze di pile, di pallet, ad esempio, oppure nel campo dell'agricoltura, sulle macchine agricole per misurare l'altezza di un determinato attrezzo di lavoro dal terreno, oppure comunemente nei parcheggi per verificare se il parcheggio è occupato oppure libero, quindi in questo caso per dare indicazioni al cliente che entra dove è il posto più vicino a lui dove parcheggiare la macchina. Abbiamo parlato della luce, abbiamo detto delle onde acustiche, quali sono gli altri segnali che vengono percepiti da varie tipologie di sensori? Il più comune è una variazione di un campo elettromagnetico, nel senso che il sensore induttivo, ad esempio, crea un campo elettromagnetico in prossimità del sensore e il sensore va a misurare le variazioni di questo campo elettromagnetico. Cioè, se passa vicino un oggetto che disturba questo campo elettromagnetico, il sensore lo rileva. Funziona così le chitarre elettriche, per la verità. Più o meno in questo modo, quindi abbiamo qui i sensori induttivi che rilevano solamente oggetti metallici, perché ovviamente queste perturbazioni le hanno solamente gli oggetti metallici, quindi anche in questo caso un uso industriale per rivedere posizioni di palette, di ruote dentate, così, ma anche usi più civili per andare a misurare se una macchina sta approcciando a un semaforo, quindi per far diventare verde il semaforo, oppure sugli autovelox per determinare lo scatto della fotografia, se uno accelera o passa col rosso oppure... Ecco, proprio nel campo della mobilità, questi sensori come sono? Li possiamo vedere? Se ci giriamo per le strade c'è uno di questi sensori, normalmente si vede? Normalmente no, perché sono immersi nell'asfalto, quindi una bobina immersa nell'asfalto, quindi rileva solamente la presenza della parte metallica del veicolo che passa sopra questa bobina e che va a perturbare questo campo elettromagnetico. Leggo sensori di aria, che cosa vuol dire? Praticamente sono sensori ottici in cui ho una griglia di emettitori e di ricevitori che creano un'area molto fitta di raggi luminosi e basta che uno di questi raggi venga interrotto per rilevare se è presente o meno un oggetto. Questi sono specialistici del mondo industriale, non è difficile trovarli in giro per una città. Ecco. Grazie di Lorenzo. Grazie a voi. Beh, insomma, questa sera abbiamo parlato di sensori, ma non abbiamo certamente esaurito la casistica. Torneremo su questo tema perché i sensori sono un po' gli occhi e le orecchie della città intelligente. Ci sono molte altre tecnologie di cui vogliamo parlarvi, da quelle usate in campo medico a quelle impiegate per il monitoraggio ambientale. Per il momento, però, ci fermiamo qui. Appuntamento a domani.